La nazionale gioca oggi con l'Irlanda, ma continua la telenovela Cassano-Lippi. Sono stufo di parlarne, dice il fantasista Doriano, interrogato sul perché non abbia invitato al suo matrimonio il povero Lippi. Le convocazioni, conferma Cassano, le darò insieme ai confetti. Il CT si metta il cuore in pace. Stizzita la replica di Lippi. Ehi, biondo! Lo sai di chi sei figlio tu? Sei figlio di una grandissima puttana!